Ci sono tanti momenti per un Kinder sorpresa. Ma lo stile anni 80 è tornato anche negli spot di oggi. Pensa allo spot della Zueg Skipper, che è on air in quest'estate, lo sarà per tutta l'estate da quello che ho letto, con un remake dello spot degli anni 80 e 90. E io non so se prendermi un piccolo merito per questo, però se Spot 80 non l'avesse pubblicato probabilmente non ci sarebbe stata tutta questa voglia di riprendere questi spot. Ma Michele, come scovate tutti questi spot? Nella maniera più semplice e ovvia che si possa immaginare, videocassette prese da amici, spulciate con tanta ansia. La cosa particolare è che tendi normalmente ad andare già verso la fine del nastro, perché è il punto in cui normalmente i videoregistratori al tempo venivano lasciati in registrazione per ore e ore, magari dopo la prima serata, potevano finirci anche degli spot pubblicitari dentro. Il concetto è quello di guidare a distanza questi corpi che si chiamano avatar. Sono il risultato di DNA umano mischiato al DNA degli indigeni. Questo è il tuo avatar. Rilassati e svuota la mente. Non dovrebbe essere difficile per te. Non si può non citare Avatar, il film evento campione di incassi quando si parla di 3D. Una moda che dal cinema sta contagiando molti settori che hanno a che fare con l'immagine e la comunicazione, primo fra tutti la pubblicità. Non vogliamo però parlare della grafica o degli spot girati in 3D, ma della parte più tradizionale, più classica della pubblicità che sta sperimentando le tre dimensioni, le affissioni. Vecchi manifesti addio. Gli esperti del settore concordano. La nuova frontiera delle affissioni pubblicitarie sono le stampe su grande formato e in 3D. Azioni a metà strada tra il guerriglia marketing e il roadshow che stupiscono, divertono e coinvolgono il passante consumatore. Dai buoni omaggio o addirittura campioni di prodotto da staccare e conservare a vere e proprie forme di arredo urbano. A Francoforte, IKEA ha vestito i balconi di un palazzo così da farli sembrare i cassetti colorati dei suoi mobili. E a Brooklyn, in occasione dell'apertura del nuovo punto vendita, ha allestito un appartamento a grandezza naturale all'interno di un maxi pacco piatto posizionato nelle strade più frequentate. Un linguaggio, quello del 3D, sperimentato anche da campagne sociali all'avanguardia, come quella della Fondazione Australiana per l'Infanzia, denominata Invisible, per sensibilizzare gli adulti all'ascolto dei bambini e dei loro bisogni. Sotto la fissione, posizionata a livello marciapiede, sono stati messi dei manichini a misura di bambino, di cui si vedevano spuntare dal manifesto solo le scarpe. Da noi, le affissioni 3D devono anche fare i conti con l'italica passione per il furto degli oggetti di strada. Una delle ultime campagne Esselunga, con un enorme peperoncino tridimensionale applicato su sfondo bianco, si è ritrovata orfana dell'amuleto in più di un'affissione. Ma quanto sono diffuse le affissioni 3D? Sono una moda del momento o il futuro del settore? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Gigliotti, vice direttore creativo di una delle più grandi agenzie pubblicitarie, la Saatchi & Saatchi. All'estero sicuramente più che in Italia, perché in Italia abbiamo un po' di problemi per quanto riguarda le affissioni 3D e tutto quello che è l'ambient, un po' di problemi legati alle concessionarie che non sono sempre così facili da convincere a fare delle cose nuove. Però sicuramente è una tecnica molto coinvolgente e molto nuova. L'abbiamo sperimentata sia come network internazionale sia in Italia. Per esempio una campagna molto carina uscita a Londra, una charity, quindi una campagna no profit per smettere di fumare, dove sono stati lanciati questi Looney Lungs, che sono dei polmoni matti a forma di palloncino, posizionati sempre in situazioni un po' di pericolo. Per esempio sono appesi ad un filo elettrico che corre tra due palazzi, oppure sono inseriti all'interno dei pub inglesi sul target delle freccette, e l'idea è proprio di cercare di stimolare le persone a capire quali sono i pericoli che i polmoni dei fumatori corrono.